21h. Radioascoltatori, bentornati ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. E come sempre in studio Annalisa ed Alessandra. Buonasera cari amici radioascoltatori, in studio Annalisa ed Alessandra ed in regia il nostro direttore Roberto Giava. Buonasera al pubblico che ci ascolta a casa. Annalisa, un'altra puntata di Giro di Boa, dunque come tu giustamente dicevi, un programma di approfondimento e dibattito. Dunque questa sera cercheremo di approfondire un argomento di calda attualità, potremmo chiamarla. Un argomento di calda e purtroppo di grande attualità a partire diciamo dal dicembre scorso. In realtà è un tema che purtroppo è da parecchi anni, e, diciamo, ne parleremo più diffusamente Questa sera Giro di Boa. Il tema della serata è la crisi dei rifiuti a in Napoli, Campania, e, esatto. In Campania. Ne parleremo in studio con Marco. Salve a tutti. Ciao Marco. Marco è originario di Napoli ed vive da un anno qui a Bruxelles. Sì, solo da un anno, quindi ce l'ho ben presente questa questione. E ovviamente poi abbiamo anche un ospite in collegamento telefonico che non è altro che Marco ancora, il nostro amico caro Marco Borraccetti. Marco, ci sei? Sì, ciao, ci sono, buonasera a tutti. Bentornato a Giro di Boa. Esatto. Ormai sei un amico fidato, ricordiamo i nostri amici radioascoltatori, Marco Borraccetti, che è docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Bologna, sede di Forlì. Grandissima. Quest'volta me ne sono ricordata. Dunque, con i nostri due ospiti cercheremo di approfondire questo tema, che come dicevamo prima è un tema di attualità, ma che comunque è un'attualità che dura da tempo, perché sebbene ci si ricorda, la crisi dei rifiuti in Campania risale, è un'emergenza che c'è dal 1994, quando venne nominato il primo commissario di governo per risolvere la situazione. Le cause principali alla base dell'emergenza dei rifiuti in Campania si possono individuare in diverse zone. Anzitutto i ritardi della pianificazione e della preparazione di discariche idonee avvenute solamente nel 2003. Poi bisogna ricordare anche i ritardi della pianificazione nella ricostruzione di inceneritori, oltre che i ritardi nella pianificazione e la costruzione di impianti di compostaggio. Al di là ovviamente delle cause meramente tecniche, come abbiamo appena sottolineato, va anche messa in evidenza l'emergenza rifiuti sia un settore di introito per la Camorra napoletana, anche di introito anche maggiore rispetto a quello che è rappresentato dal traffico della droga e del pizzo. Allora, come dicevamo prima, una crisi dal 94 fino ad oggi. Ripetendosi in più periodi, i rifiuti solidi urbani non sono stati raccolti nelle aree e sono rimasti dunque nelle strade. Ora, come dicevamo prima, un commissariamento, dunque il governo è intervenuto con un commissariamento. Dal 94 ci sono stati diversi commissari, ricordiamo attualmente c'è il Gianni Di Gennaro, che è commissario liquidatore dal gennaio del 2008, in precedenza c'era stato Guido Bertolaso e in precedenza ancora dal 2000 al 2004 Antonio Bassolino. Ora, nel 1997 è stato anche pubblicato un piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, che prevedeva la realizzazione di due termovalorizzatori, che vedremo poi in seguito che cosa sono, e di 7 impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti. Il grosso problema di Napoli però è sempre stata la non autosufficienza, che dunque ha sempre impedito la possibilità di liberarsi di questi rifiuti. All'inizio del 2001 si registra ancora una pesante crisi e dunque alcune discariche vengono riaperte. Altri rifiuti invece vengono incominciati ad essere spediti verso altre regioni, quali per esempio la Toscana, l'Umbria, l'Emilia-Romagna e anche verso l'estero, cioè in Germania. Poi tutti ricorderanno che a partire dal 2007 fino all'inizio del 2008 si è registrata l'ennesima crisi, dunque la crisi che ancora oggi stiamo vivendo. Un'ultima cosa che volevo accennare è il riferimento alla spedizione dei rifiuti, cioè quanto costa spedire i rifiuti. Ho appena accennato che dal 2001 si è incominciata questa esportazione, diciamo così, di rifiuti verso la Germania. Bene, spedire rifiuti napoletani o campani verso la Germania costa 215 euro per tonnellata. Se noi facciamo una stima nel 2007 si sono spesi circa 400.000 euro al giorno, metà dei quali semplicemente per il trasporto. Ciononostante, il prezzo della spedizione dei rifiuti verso la Germania è comunque un prezzo alquanto competitivo rispetto al loro smaltimento in Italia, in quanto la stessa cosa in Italia costerebbe 290 euro come minimo e come a tonnellata fino a un massimo di 1.000 euro. Interessante vedere come arriviamo alla cifra di 290 euro, in quanto 120 euro verranno spesi per fare le cosiddette ecoballe, 20 euro per il trasporto e ben 150 euro, ripeto 150, per lo stoccaggio provvisorio, in alcuni casi stoccaggio provvisorio che va avanti da 20 anni. Per cui, Annalisa, vediamo chiaramente che le cifre, ma soprattutto gli anni di questa crisi, di questa emergenza, sono spaventose. Prima di iniziare il dibattito con i nostri ospiti, vorrei però ricordare ai nostri radioascoltatori che anche l'Unione Europea è intervenuta sul caso, e ovviamente per quanto riguarda l'Unione Europea ci sono specifiche legislazioni in materia di smaltimento dei rifiuti, con cui parleremo più diffusamente con Marco Borraccetti in serata. E l'Unione Europea, più precisamente la Commissione Europea, ha iniziato a partire dal giugno 2007 una procedura di infrazione contro l'Italia, proprio perché l'Italia ha contravvenuto alla legislazione europea. Ricordiamo che il commissario all'ambiente Stavros Dimas, parlando al Parlamento Europeo lo scorso 15 gennaio, ha ricordato che la Commissione Europea, come custode del significato del Trattato dell'Unione Europea, continuerà la procedura di infrazione contro l'Italia, appunto perché l'Italia sta contravvenendo a tale legislazione. Il commissario ha detto che la Commissione è pronta a intraprendere ulteriori passi in caso questa infrazione continui, inclusa la possibilità di imporre delle sanzioni all'Italia. Anche dalle sanzioni pecuniarie. Ricordiamo che la Commissione europea ha già inviato due lettere al governo italiano, sostanzialmente di avvertimento, e la più recente è data proprio fine gennaio. In questa ultima lettera la Commissione ha dichiarato che è appunto pronta a portare il caso presso la Corte di giustizia della Comunità europea. Quando il commissario all'ambiente ha parlato recentemente al Parlamento europeo ci sono state, vorrei ricordare, alcune reazioni di alcuni parlamentari europei italiani. Giuseppe Gargani del Partito dei Popolari Europei ha dichiarato che tutto il problema nasce dal fatto che la gestione dei rifiuti è nelle mani della camorra, del crimine organizzato, e che la Commissione europea deve prendere una forte posizione a riguardo. Gianni Pittella del Partito dei Socialisti Europei ha dichiarato che non è soltanto una questione di politica, ha dichiarato che non c'è molto senso civico in quella parte del mondo, commento che è stato sostanzialmente echeggiato da Alfonso Andria dei liberali, che ha dichiarato che appunto ovviamente si riferiva alla Campania, non c'è un giusto atteggiamento nei confronti dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, ma magari su questi commenti poi ritorniamo più tardi con Marco in studio. Dunque, io direi, dopo questa introduzione, vorrei subito un commento a caldo dal nostro amico in studio Marco, cioè il napoletano verace. Marco, cosa ne pensi di tutta questa situazione? Prima di entrare magari nell'analisi e nel dibattito sulle questioni specifiche, come reagisci tu, napoletano, ad una vicenda di questo tipo? Allora, veramente la prima reazione è sicuramente una reazione di vergogna. Cioè, sapere che sei originario di una città che in questo momento è nelle notizie, è sulla bocca di tutti a causa di un problema così grave, e, insomma, è veramente una reazione di vergogna. Insomma, mi vergogno a parlarne con i colleghi di lavoro qua, mi vergogno quando incontro altri italiani all'estero che quasi mi rinfacciano, insomma, ma di dove sei? Sei di Napoli? Ah, c'è quella brutta situazione lì, sì, è vero, insomma, c'è davvero una pessima situazione. Quindi la prima reazione da parte mia è una reazione di vergogna, insomma, veramente provo vergogna a provenire da un posto così, purtroppo non c'è nulla da fare, insomma. E per il resto è anche ovviamente una situazione di rabbia nei confronti di chi, delle autorità che avrebbero dovuto saper gestire questa situazione, appunto un'emergenza, una finta emergenza, perché un'emergenza non può durare tanti anni come esatto, che io volevo sottolineare questa cosa qua. Si è sempre parlato di emergenza, ma se noi guardiamo un qualsiasi dizionario della lingua italiana, alla parola emergenza troviamo la definizione improvvisa difficoltà, situazione che impone di intervenire rapidamente. Io nella mia breve ricostruzione parlavo del 1994, dunque magari adesso siamo nel 2008, improvvisa necessità? No, non c'è mai stata un'improvvisa necessità di nulla, insomma c'è stata necessità da sempre di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti a Napoli, come anche quello di introdurre una corretta raccolta differenziata dei rifiuti che, insomma, per quanto ne dicano i parlamentari europei o da altre parti d'Italia, è una questione anche culturale, insomma, è qualcosa che va insegnato alla popolazione con esempi, anche con l'effettiva poi disponibilità di un posto dove riporre i rifiuti differenziati. Voglio ricordare che nei posti dove ho vissuto, cioè nel centro della città di Napoli e un paesino appena limitrofo ai confini del comune di Napoli, i cassonetti per la per la raccolta differenziata sono apparsi davvero un mese fa, insomma, quando si era all'apice dell'emergenza, tra virgolette. Marco, quell'altro, quello in collegamento telefonico. Ci siamo. Ci sei? Ci sei. Dunque, tu invece un commento da cittadino, semplicemente. Ma che... da cittadino è sconfortante, però io mi permetto di fare un'osservazione. La questione secondo me non riguarda solo Napoli, cioè Napoli è la punta dell'iceberg e in realtà si sta perdendo per l'ennesima volta l'occasione per parlare di una questione che riguarda il territorio nazionale. Se è vero che i rifiuti urbani, ed è questo il problema per cui Napoli adesso e la Campania sono al centro delle cronache, per i rifiuti urbani c'è un grosso problema di pianificazione, di realizzazione, di gestione, un po' c'è anche il principio in forza del quale nessuno, come si dice noi in italiano, vuole una discarica nel proprio giardino. Bisogna anche essere onesti e riconoscere che per anni la Campania è stato il centro è stata la discarica illegale, non solo la Campania ma anche il mare Mediterraneo e altre terre, insomma, come la Calabria e la Sicilia, sono state sostanzialmente delle discariche illegali dei rifiuti pericolosi, quindi ancora quelli peggiori, che provenivano dall'area industrializzata del nord Italia, perché chiaramente smaltirle con il rispetto delle procedure ha un costo e sversare, si dice, non è un infortunio linguistico, ma sversare i rifiuti in un terreno senza dover prestare alcun tipo di attenzione costa infinitamente di meno. E questo è un problema che c'è stato, quindi in realtà a mio modo di vedere si sta perdendo questa occasione. Certo, per la questione dei rifiuti urbani la situazione è particolarmente grave, perché noi parliamo di rifiuti, a volte prestiamo attenzione più all'aspetto economico. E c'è un problema non solo di cultura, non solo di educazione, c'è anche un problema di salute pubblica, di salute delle persone. più il rifiuto sta in strada a macerare sostanzialmente, peggio è e maggiore c'è il rischio di malattie, magari non di malattie particolarmente letali, però c'è comunque il rischio di malattie, di contagi, e questo non è sicuramente una cosa comunque accettabile nel 2008 nel nostro paese. Marco, tu facevi riferimento, e anche prima Marco in studio faceva riferimento allo smaltimento dei rifiuti provenienti dal nord d'Italia, che si sono smaltiti a Napoli, rifiuti diversi dei rifiuti urbani, esatto? Sì, sì, ora, diciamo che... Sì, la mia domanda è, però noi ora stiamo parlando dei rifiuti urbani che sono nelle strade. Certo. Dunque, io volevo sapere, il fatto di mettere l'accento sul fatto che Napoli o la Campania abbia smaltito altri tipi di rifiuti non toglie il punto del problema, nel senso non distoglie l'attenzione su quello che è il problema, che il problema, come tu l'hai detto, come l'ho detto io prima, è stata la pianificazione. Cioè, un'emergenza che dura dal 94 significa che non c'è stata pianificazione prima del 94, ma non c'è stata neanche pianificazione dopo il 94, al di là del fatto che Napoli abbia comunque smaltito i rifiuti tossici che sono provenienti dal nord. Ma io sinceramente e faccio un'osservazione di carattere più generale. E è chiaro che il problema dei rifiuti urbani è grave, ed è altrettanto vero che i rifiuti urbani devono essere smaltiti in prossimità del luogo di produzione. In questo caso è evidente che ogni regione, ogni comunità o gruppo di comunità e di cittadini si devono attrezzare per avere dei luoghi in cui smaltire, diciamo, i rifiuti urbani che non possono essere né soggetti a recupero né soggetti a riciclaggio e né soggetti ad altre operazioni di trasformazione, insomma, perché possono essere riutilizzati, reimpiegati. E però è anche altrettanto vero un'altra questione, intanto perché nel luogo più prossimo al punto di produzione, perché chiaramente più il rifiuto viaggia più potenzialmente arreca danno alla salute delle persone. Questo è un principio ambientale che è anche scritto all'articolo 175, attuale numerazione del scusatemi, 174 del trattato della Comunità Europea, attuale numerazione, che si chiama principio della correzione del danno alla fonte. Cioè, si presume che con un rifiuto si arrechi danno all'ambiente, allora cerchiamo di posizionare questo danno nel posto più vicino al posto di produzione, al luogo di produzione, per evitare danni all'ambiente trasportandolo. Io vi do solo un dato che si può ricavare da una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 26 aprile del 2007, in cui si diceva che nel 2002, quindi 5 anni e mezzo, nel 2002 c'erano 5.978, ripeto, 5978 discariche illegali in 6.890 comuni d'Italia, dato del Corpo Forestale dello Stato, che è una forza di polizia del nostro paese. Questo significa che, per questo io dicevo, non è un problema di Napoli, ma è un problema di cultura diffusa nostra. E se voi verificate i dati anche che ci vengono, potevamo vedere ieri su Repubblica, anche sul sito web di Repubblica, il grafico faceva vedere che certo ci sono regioni all'avanguardia nella raccolta differenziata, però la media del nostro paese, nella stragrande maggioranza, ancora questa cultura non esiste. Sì, esatto, tu dicevi giustamente, ci sono diverse realtà cittadine, ci sono diverse realtà regionali, come per esempio io ho trovato un esempio su Venezia, tutti conoscono Venezia o comunque hanno... Cioè, sappiamo benissimo che a Venezia ci sono all'incirca 20 milioni di presenze annue di turisti, dunque praticamente è impossibile o molto difficile imporre la raccolta differenziata. Comunque Venezia è riuscita a gestire i rifiuti in maniera probabilmente egregia, grazie ad un impianto che è uno dei più grandi d'Europa, a quanto pare, che fa combustibile derivato dai rifiuti, viene definito, che manda alla discarica solo il 6% dei rifiuti. Cioè praticamente si tratta di un inceneritore che si trova a 8 km dal campanile di San Marco. Ora, questo inceneritore non fa altro che bruciare tutti i rifiuti, di come dicevo prima, oltre che degli abitanti della zona di Venezia, che comprende Mestre, Marghera e le isole, anche di Chioggia e di una grande parte della riviera del Brenta, per un totale di circa 300.000 persone. Questi rifiuti vengono smaltiti, anzitutto vengono trasportati attraverso delle barche nei canali, cosa molto difficile ovviamente. I rifiuti comunque vengono bruciati e la metà del prodotto compatto che esce da questo combustibile derivato da rifiuti è ceduto all'Enel, che poi lo brucia al posto del carbone per fare energia. Per cui grazie a questo inceneritore di Venezia, il costo dell'energia non subirà variazioni nei prossimi 20 anni per quanto riguarda Venezia città e provincia. Ora Marco, lo dicevi anche tu, ci sono realtà diverse, abbiamo visto la realtà di Venezia, ma allora il problema di Napoli qual è? È come al solito la mala amministrazione. Io vorrei fare una domanda a Marco in studio e ovviamente anche a Marco in collegamento. Alessandra ha fatto l'esempio dell'inceneritore di Venezia. Ricordiamo che appunto dopo, siamo ancora in crisi, ma diciamo immediatamente dopo il punto caldo della crisi, metà gennaio, Prodi aveva promesso la costruzione di 3 inceneritori e la creazione di nuove discariche, se non che a Napoli e in Campania fortissima è l'opposizione contro la costruzione di inceneritori, quindi io mi chiedo quali sono le cause che portano a tanta opposizione, se gli inceneritori esistono in altre regioni d'Italia, Alessandra ci ha appena dato l'esempio di Venezia e a quanto pare funzionano, quindi da che cosa è data questa posizione, da che cosa è data la protesta che c'è stata contro questo? Allora, se il Marco che non è in studio non vuol rispondere, Marco. No, ci provo io dallo studio. Vai tu, ti seguo dopo. Ok, allora la mia impressione, insomma, riprendo un attimo il dato che tu hai dato, no? 5.900 e passa discariche abusive in fondo, sì, in oltre 6.000 comuni sì. D'Italia. Ecco, io non so com'è il resto della situazione nelle altre regioni, ma per quanto ne so io, insomma, c'è stata una densità enorme di queste discariche abusive in Campania, nella provincia di Caserta, a nord di Napoli, ma anche nella stessa provincia di Napoli, e quindi di discariche abusive dove sono stati smaltiti non soltanto i rifiuti solidi urbani, così come vengono chiamati, ma anche i rifiuti dannosi, estremamente pericolosi, provenienti dalle zone industrializzate del nord. E questo in effetti è il legame con la questione della riluttanza delle persone a voler vicino casa un impianto di smaltimento o qualunque cosa abbia a che fare con i rifiuti urbani. L'idea è quella che nello stesso posto vengano poi smaltiti i rifiuti in modo improprio, in modo assolutamente dannoso per la salute. Ed ecco perché in quelle poche zone dove l'ultimo commissario De Gennaro riesce a far aprire una discarica senza, insomma, non dico senza proteste, ma mediando, è proprio dove sono quelle zone in cui si riesce a dare una garanzia ai cittadini, agli amministratori locali, che in quella specifica discarica non verranno introdotti rifiuti di tipo pericoloso, rifiuti organici provenienti da altre parti d'Italia o da altre parti della stessa Campania. E insomma, quindi io vedo un legame piuttosto profondo tra la sfiducia del cittadino nel volere la discarica nel proprio giardino e il fatto che nelle discariche, almeno per quello che si sa in Campania, sono stati smaltiti i rifiuti in modo improprio. Non so, Marco, se tu vuoi aggiungere qualcosa. No, io sono completamente d'accordo su questo. Io credo che ci siano per la Campania delle ragioni purtroppo specifiche di quella terra. Credo anche però che ci siano delle ragioni che sono a carattere nazionale. Allora, sicuramente c'è una questione che riguarda la criminalità. Questo è purtroppo andato di fatto, cioè la cosiddetta ecomafia, ecco. cioè il fatto che il business del smaltimento illegale dei rifiuti sia un business miliardario. Vale più di quello della droga e del pezzo, come dicevamo anche prima. Paradossalmente più difficile da individuare e più sicuro, con paradossalmente in impatto, forse anche per ignoranza, meno riprovazione sociale, perché se la cosa viene nascosta sotto il tappeto non si vede, questo è il principio di base, no? E dall'altro, secondo me, c'è anche un problema di crisi politica, della politica in generale, c'è un problema di informazione e c'è la paura delle conseguenze dovuta all'assenza di fiducia, cioè io non voglio che mi si faccia la discarica vicino a casa mia perché ho paura, perché non sono informato delle conseguenze che questa potrebbe comportare sulla vita mia e della mia comunità. E c'è anche chi sfrutta con allarmismo emotivamente questa situazione, per cui l'oggetto di realizzazione di una discarica è anche aspro terreno di confronto politico, quando poi magari cambiando le maggioranze in tempi successivi, chi era la posizione avversava una situazione poi porta avanti lo stesso progetto, e questo sicuramente non è positivo. E quindi la questione di assenza di fiducia. L'aspetto poi c'è l'aspetto appunto di assenza totale di etica di comportamento, che di senso dello Stato, non da parte solo dei politici ma di tutti, cioè l'idea che lo Stato, che il pubblico sia qualcosa di diverso dal proprio, che è un'idea assolutamente errata assolutamente criticare, fa in modo che sia sempre un colpito degli altri, quindi crea l'alibi affinché la soluzione venga risolta. Questa è la famosa teoria dell'alibi, tale per cui è sempre colpa di qualcun altro che non fa. E che è vero fino a un certo punto, perché appunto fare vuol dire anche assumersi responsabilità, accettare che sul proprio territorio, vicino al proprio territorio, ci siano questi impianti, che sono impianti sicuri, tra le altre cose, se effettuati, se realizzati nel rispetto delle regole, e sicuramente non sono pericolosi per la popolazione quanto lo smaltimento incontrollato o lo smaltimento illegale, se non altro perché c'è un controllo. Esatto, e infatti io su questo volevo fare una precisazione, magari sul piano etico di cui tu stavi parlando approfondiremo dopo la pausa musicale, ma sull'allarmismo di cui tu hai citato, allarmismo che magari alcune volte non è giustificato, nel senso che, ritornando ancora sul mio esempio di Venezia, l'inceneritore di Venezia rappresenta un inceneritore di ultima generazione e infatti fra filtri e controfiltri sta molto sotto i limiti fissati dalla legge. E infatti, se facciamo i conti, il camino di Venezia, che smaltisce quello che resta dei rifiuti di, come dicevo prima, 300.000 abitanti dell'area più i 20 milioni di turisti che la Serenissima accoglie ogni anno, butta in aria all'incirca 60.000 milligrammi di polveri. Ora, per dirla in un'altra maniera, 60.000 milligrammi di polvere, se noi facciamo dei paragoni, è quello che dovrebbe uscire dai tubi di scappamento di 15 automobili di tipo Euro 2. Dunque, praticamente poca cosa. Sì, poi mi permetto di aggiungere che noi parliamo di incenerimento, ma l'incenerimento è l'ultimo. Tappa. È l'ultima tappa a cui noi dovremmo far ricorso. Da questo punto di vista, tanto la normativa comunitaria che il decreto Ronchi, che era lo strumento con cui l'Italia aveva recepito la normativa italiana e la normativa comunitaria, ma anche l'attuale decreto legislativo 152/2006, che è il cosiddetto codice dell'ambiente, e pongono determinate condizioni di comportamento che si dovrebbero seguire, cioè la riduzione, il riutilizzo, il riciclo e il recupero energetico dei rifiuti, ma l'incenerimento è proprio l'ultimo stadio, la cosiddetta ultima spiaggia per eliminare. Prima si dovrebbero seguire comportamenti virtuosi, e cui mira in realtà, qui è finalizzata la raccolta differenziata, quindi in realtà l'informazione non dovrebbe essere solo sull'accettare una discarica o un inceneritore, ma anche sul comportamento virtuoso da tenere prima, ricordando che in realtà da un punto di vista economico ai cittadini conviene la raccolta differenziata, perché da un punto di vista di tasse pagate, diciamo così, con parole semplici, e una raccolta differenziata avviata a regime costa da un punto di vista di imposta sui rifiuti meno di una raccolta indifferenziata. Bene, torniamo dopo la pausa musicale sulla normativa comunitaria e sul decreto Ronchi appena citato da Marco. Pausa musicale. Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta. Bere del whisky a Roxy Bar, forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere il suo bar, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena. bentornati in studio. Questo è il vostro programma dal giovedì sera, in onda dalle 9 alle 10, come sempre, Giro di Boe sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera stiamo parlando della crisi dei rifiuti di Napoli con un amico in studio, Marco, e con un altro amico in collegamento telefonico che si chiama ancora Marco. Allora, Annalisa, volevi fare qualche accenno alla legislazione comunitaria? Sì, vorrei ritornare con Marco, in collegamento dall'Italia. Abbiamo parlato in precedenza di normative comunitarie, di disposizioni comunitarie, che l'Italia appunto non starebbe rispettando. Abbiamo anche parlato di una procedura di infrazione iniziata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia nell'estate del 2007. Marco, ci vuoi dire brevemente ai nostri radioascoltatori quali sono i punti principali di questa normativa europea in ambito ambientale e che cosa che cosa prevede questa procedura di infrazione, che abbiamo ricordato in apertura potrebbe portare anche a sanzioni? Sì, dunque c'è da dire una cosa, si tratta di un mancato rispetto della normativa comunitaria, pur se questa normativa comunitaria è stata recepita. È un caso particolare, cioè non è che l'Italia non abbia adottato la normativa relativa alla che richiedeva la direttiva per la sua attuazione, semplicemente che pur adottata dopo non la rispetta. E diciamo che la direttiva, le direttive che ci possono interessare dal punto di vista dei rifiuti in generale, quindi ordinari, ecco, sono due: la direttiva 75442 e la direttiva 2006-12. La direttiva 2006-12 sostanzialmente cosa fa? Fa un'azione di pulizia normativa, perché siccome quell'altra, la 75442, era stata modificata più e più volte, con questa 2006-12 si chiarisce il quadro normativo. E oltre a definire cosa sono i rifiuti, i produttori e i detentori, uno dei passaggi più importanti, oltre alla definizione di smaltimento, recupero e raccolta, è quello di dire che gli Stati membri devono adottare tutte le normative idonee a fare in modo che il recupero, lo smaltimento dei rifiuti avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza arrecare pregiudizio all'ambiente. Facendo poi degli esempi chiaramente non tassativi, quindi senza rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora, senza creare inconvenienti di rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio, senza danneggiare i siti di particolare interesse. L'Italia dà attuazione alla direttiva 75442 col decreto Ronchi e in realtà, che è un decreto dell'allora ministro dell'ambiente, un decreto legislativo, che è epocale perché introduce nel nostro paese l'idea della raccolta differenziata. E però vediamo appunto che la strada da fare è molta. Cosa ci viene contestato ora dalla Commissione? Ci viene contestato di continuare a non prestare attenzione proprio a che lo smaltimento dei rifiuti o il suo recupero avvenga con rispetto per l'ambiente circostante. E per questo in realtà c'è una sentenza della Corte di Giustizia che vi citavo prima, che è del 26 aprile dell'anno scorso, del 2007, per chi è curioso il numero 135.05, in cui la Corte di Giustizia ci fa capire che è improprio parlare di emergenza, perché l'emergenza è un qualcosa di improvviso, circostanziato dal tempo, invece ci parla di una situazione generale di mancanza di rispetto di questa norma. E un accertamento compiuto dal Corpo Forestale dello Stato, che è una forza di polizia. E allora cosa significa? Significa che è appunto un comportamento diffuso ed è soprattutto una delle cose peggiori. Perché? Perché se noi fossimo in assenza di una normativa, potremmo dire vabbè, allora dobbiamo adottare la normativa necessaria e poi farla rispettare. Il problema è che qua non viene fatta rispettare una normativa che c'è, che esiste. E rispondo all'ultima domanda: perché l'Italia può essere soggetta a sanzione? Perché la procedura di infrazione aperta dalla Commissione è proprio figlia di questa sentenza. Cioè il trattato prevede che se dopo una sentenza che dichiara l'inadempimento di uno Stato, lo Stato non fa nulla per rispettare la normativa comunitaria, come in questo caso l'Italia, allora la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione che può terminare innanzi alla Corte di Giustizia con un ricorso e con il quale viene chiesto di condannare lo Stato ad una sanzione pecuniaria. E da un lato una sanzione che colpisce l'inadempimento in sé, dall'altro una misura sempre finanziaria che colpisce la gravità e la reiterazione dell'inadempimento. Allora abbiamo una notizia pubblicata sul Corriere del Mezzogiorno, intervengo qui dalla regia e stiamo navigando su internet, scusami se ti interrompo Marco, e dunque come dicevi tu si prospettano alcune sanzioni, e spiega la dottoressa italiana Pia Bucella, che non so se sei al corrente, è la credo che sia nella Direzione Generale dell'Ambiente Unione Europea, ed è guarda caso italiana. Intervistata dall'ASCA sulla crisi dei rifiuti in Campania, lancia il suo appello a fare di tutto per non essere deferiti alla Corte di Giustizia Europea. L'articolo dice che in quel caso, afferma la Bucella, la multa sarebbe doppia, una forfettaria che è funzione del PIL del paese, e lì non sarà molto, ce lo diciamo, l'altra giornaliera che va da 20 a 800 mila euro al giorno per tutti i giorni che vanno fino a che non ci si mette in regola, a partire dalla data in cui si pronuncia la sentenza della Corte. Sarebbe una disdetta questo, a mio modo di vedere, per le casse già povere del nostro paese. Poi non so in quale misura sarebbero imputate all'amministrazione locale, in quale misura poi invece sarebbero dovute da parte di quella centrale. In aggiunta a possibili sanzioni, leggo anche che il vicepresidente della Commissione, Franco Frattini, ha dichiarato che la Commissione potrebbe decidere di interrompere alcuni fondi strutturali, l'erogazione di alcuni fondi strutturali all'Italia. Apparentemente alcuni di questi fondi sarebbero stati destinati alla Regione Campania proprio per lo smaltimento dei rifiuti. E c'è un paradosso, sempre ce lo riporta sempre la Bucella, che vive a Bruxelles e dice di essere stata multata, lei personalmente, per non aver smaltito correttamente una confezione di cellophane che conteneva gli opuscoli di carta pubblicitaria, che qui vanno molto di moda, qui anziché tempestare di opuscoli di carta pubblicitaria le nostre cassette postali, li inseriscono tutti in dei contenitori di cellophane, e lei, non avendo smaltito correttamente il contenitore di cellophane, che in effetti non saprei dove smaltirlo sinceramente, perché non è plastica ma neanche carta, è stata multata qui su Bruxelles. Beh, questo fatto dell'essere multati per non aver smaltito opportunamente, tocca un po' tutti, diciamo, sì. Che una storia che abbiamo un po' sentito da amici vari. Sì, no, lei diceva il paradosso che poi, dunque, ciò che è successo a Napoli sembra serva, perché in varie parti d'Europa ci sono state ultimamente per televisione, nei vari organi di stampa, svariate campagne di informazione e sensibilizzazione che tocca soprattutto i giovani, che sono i più attenti al problema ambientale. Quindi il paradosso è che poi dalle immagini che sono rimbalzate su tutti i media europei e mondiali di ciò che è successo a Napoli è nata poi una campagna quasi spontanea da parte degli stessi media di informazione e di sensibilizzazione, quindi quasi a dire dobbiamo anche ringraziare. No, beh, scusi, se posso dire, direi che almeno una funzione educativa. Esatto, almeno. Ma chissà che non l'abbiano fatto apposta allora. No, questo lo scusi, però volevo dirvi una cosa, questa questione dell'essere multati in realtà c'è anche in Italia. Però c'è sempre una doppia questione, dall'altro il fatto che non sempre il rispetto delle regole in Italia è garantito purtroppo, dall'altro che un comportamento di questo tipo è sempre oggetto di riprovazione sociale in Europa. In Italia uno che viene multato, perché la questione qual è? Che se c'è il paese che fa la raccolta differenziata, gli abitanti devono chiaramente compiere la raccolta differenziata, però bisogna conferire i rifiuti nei luoghi appositi del proprio paese, quindi c'è qualcuno che viene da fuori per pagare di meno, perché è più comodo non fare la raccolta differenziata magari o farla in altre maniere, e per comodità conferisce i rifiuti nel posto dove lui non deve farlo, e questo può essere oggetto di sanzioni. Il problema è che un comportamento di questo tipo, che è di furbizia, perché magari non si è pigri e non si vuole adottare la raccolta differenziata, non è riprovevole da un punto di vista sociale, come cosa che per mio conto dovrebbe essere, ma semplicemente in Italia si dice vabbè, poverino, non importa. In realtà la misura di sanzioni c'è, esiste, perché siccome sulla base dei rifiuti che noi produciamo dovremo pagare la tariffa, su quindi l'imposizione fiscale sulla produzione di rifiuto, è chiaro che se dove io conferisco i rifiuti arriva qualcun altro che non c'entra nulla, fa pagare a me i suoi rifiuti. E quindi è questa la ragione. Poi il caso di Bruxelles io non lo conosco. Quello che voglio dire, da quello che ho capito, circa la questione dei fondi strutturali, io credo che sia collegata fino a un certo punto. Cioè è vero che l'Unione Europea può ridurre il flusso di fondi se ci si rende conto che i fondi non vengono impiegati. Molto spesso l'Unione Europea chiede la restituzione. Voglio ricordarvi che non più tardi di un mese fa il ministro Bersani ha ricordato che nel caso in cui non ci fossero stati progetti seri per l'impiego di fondi provenienti dall'Unione Europea, avrebbe preferito restituirli piuttosto che assegnarli a un qualcosa o a un qualcuno di misterioso che non dava le garanzie per per l'utilizzo di questi fondi. Sì, vabbè, però il risultato finale è chiaro che se l'Italia riuscisse in brevissimo tempo a risolvere la questione dei rifiuti di Napoli, la Commissione potrebbe, perché ha una facoltà, non un obbligo, fare anche a meno di rivolgersi alla Corte di Giustizia. Ed è altrettanto vero che qualora invece si arrivasse innanzi alla Corte di Giustizia, in questo caso purtroppo la sanzione sarebbe sicuramente elevata. Perché... Sì, torniamo un attimo. Torna anche al comportamento, no, infatti ti davo la parola, Alessandro. No, io quello che volevo dire è che il fatto dei fondi comunitari, comunque come citato da Annalisa, le parole del commissario Frattini, era semplicemente, credo fosse una minaccia, era stata paventata semplicemente una minaccia. Io però mi volevo riallacciare a quello che tu dicevi prima dalla pausa musicale, cioè al senso etico dei cittadini napoletani, e anche a quello che stavamo dicendo prima, cioè a me il fatto che la raccolta differenziata presuppone una struttura, cioè se non c'è la struttura è difficile fare la raccolta differenziata. E allora io vorrei citare un esempio, un'esperienza che Greenpeace ha fatto alcune settimane fa a Napoli, cioè per una settimana Greenpeace ha fornito a un gruppo di cittadini quanto occorre per la raccolta differenziata. Scopo di questa esperienza era dimostrare all'opinione pubblica internazionale che ai cittadini napoletani non manca né il senso civico né la disponibilità. L'unico problema è l'assenza della volontà politica e strategica di gestire i rifiuti in maniera efficiente e responsabile. Cosa è successo? In una settimana c'è stata la raccolta differenziata per 50 famiglie che hanno raccolto in totale più di 520 kg di rifiuti, di cui, appunto, visto che hanno fatto la differenziata, si sono avuti il 27% di indifferenziato, il 21% di carta e cartone, che potrebbe essere utilizzato per produrre un quintale di libri in carta riciclata, il 12% di plastica e lattine, che dalla plastica si potrebbero ricavare 21 maglie in pile oppure 8 piumini di pile, dalle lattine invece si potrebbero ricavare o due biciclette o 8 caffettiere, oppure se volete anche 2 monopattini. Infine si aveva l'umido, il 30%, da cui si potrebbe ricavare un quintale di compost. Secondo me non è in discussione l'educazione civica, è in discussione forse da parte della comunità napoletana un senso, la mancanza del senso di reazione. È questo che vorrei chiedere infatti a Marco, che è qui in studio con noi. Cioè, come mai la ribellione non c'è stata, anzi, se c'è stato un movimento è stato semmai in direzione opposta? Perché davanti, ecco, io interrogo te, ma indirettamente il tuo arco di conoscenze in famiglia, amici, eccetera, parlandone tra voi, cosa vi siete detti? Cioè, che cosa bisognerebbe fare? Perché il resto della cittadinanza non si è mosso in direzione opportuna? Ma vedi, Roberto, il discorso è sempre che... quando i cittadini devono far da soli qualcosa, c'è un'inerzia molto superiore rispetto a quando hanno dei buoni esempi da seguire. ti faccio presente che soltanto ultimamente nei comuni limitrofi della provincia di Napoli si sono iniziati a vedere per strada i raccoglitori, gli appositi cassonetti per la raccolta differenziata. Erano veramente pochissimi, lo sono stati fino a pochissimo tempo fa, e i comuni stanno correndo ai ripari proprio nelle ultime settimane. Questo vuol dire che anche se un cittadino modello napoletano della provincia volesse fare questa raccolta differenziata in qualche modo, non avrebbe dove smaltire i rifiuti differenziati che differenzia in casa. Quindi va bene ed è chiaro è il discorso che l'educazione civica è qualcosa che Deve essere surrogata poi da una struttura, un'infrastruttura che tiene, ma quello manca, non è neanche ora, a parte la raccolta differenziata, non è quella che è mancata la raccolta. In questo caso, in generale, è mancata la raccolta. Cioè, perché non si sono levate voci di protesta? Voglio dire, non che dovessero andare a fare dei sit-in particolari davanti all'ufficio di Bassolino, e forse pure ci stavano, ma come mai non c'è stato non si sono levati gli animi, voglio dire, per strada, con delle manifestazioni, dei cortei, per i napoletani stessi, per la città e contro il malaffare, l'amministrazione comunale? Perché se la gente si è mossa lo ha fatto per ancora una volta l'interesse, diciamo, strettamente circoscrizionale, di non volere una discarica lì? Abbiamo visto per televisione immagini, cittadini di pianura che dicevano: noi qui l'immondizia di Napoli non ce la vogliamo, quando poi invece cittadini di altre regioni hanno, per venire incontro all'emergenza, aperto l'opportunità e i canali per convogliarla. Quello che è mancato, credo, è stato quello spirito civico di reazione, che forse questo è un problema. Sicuramente, guarda, io penso che effettivamente lì dove ci sono delle zone dove è già difficile vivere normalmente, lo spirito di reazione per quanto riguarda problematiche, chiamiamole sottili, come quelle appunto della multa di Bruxelles o anche italiana, ci ricordava Marco, per l'errato smaltimento della spazzatura differenziata. Ecco, veramente in una situazione del genere è difficile reagire al problema dell'immondizia quando appunto non raggiunge picchi di crisi come quelli che si vedono attualmente. È sotto gli occhi di tutti che c'è qualcosa da fare ora, ma si tenga conto che in questi 14 anni di crisi, di emergenza, come la si chiama impropriamente, non è che ci sia stata mai una raccolta eccezionale dell'immondizia per le strade della Campania. Quindi si è avuto un crescendo, prima di tutto, della problematica. Si è iniziata dal non raccoglierla in alcuni posti, si è finita con non raccoglierla in molti posti. Sì, poi è stata una reazione un po' a catena. È stata una reazione a catena, e soprattutto delle strutture. Si sono praticamente riempite le discariche per la raccolta indifferenziata, perché c'è da dire questo appunto, che nel momento in cui la raccolta non è differenziata è difficile smaltire quello che viene raccolto, per cui si saturano rapidamente tutti i siti di stoccaggio. Voi a Napoli avete fiducia in De Gennaro? Io vivo a Bruxelles, quindi spero che qualcuno a Napoli, spero che la maggioranza dei cittadini di Napoli abbiano fiducia in De Gennaro. A mio parere che potrà fare anche scelte abbastanza impopolari, dovreste essere poi preparati anche a questo. Io penso che sia una delle persone che può avere tutte le carte in regola, insomma. Purtroppo si è visto il fallimento di illustri predecessori come Guido Bertolaso, di cui anche, insomma, la maggioranza della popolazione generalmente si fida. Ricordiamo che, insomma, De Gennaro è stato collaboratore di Falcone, insomma, poi è qualcosa era piuttosto, sì, candidato alla superprofessura, nel suo curriculum da questo punto di vista, suppongo anche per i napoletani tutti, insomma, quindi. Io ho un dato da darvi, ragazzi, credo che vi faccia sorridere. Noi ogni anno, essendo cittadini italiani, secondo un rapporto che è lo stesso che citava prima Marco in collegamento telefonico, cioè il rapporto del 2007 dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente, che è stato presentato ieri dal ministro Pecoraro Scagno, ogni cittadino italiano produce in media ogni anno più di 560 kg di immondizia. Ora, stando allo stesso rapporto, nel 1995 c'erano circa 100 kg in meno rispetto a oggi di immondizia, di rifiuti. Ora, io mi domando, nel 1995 non vivevamo bene? Vivevamo peggio di oggi? Non c'era benessere? Perché in soli 12 anni abbiamo 100 kg? Ma è un dato italiano questo? O? Sì, sono dati italiani. Beh, nel 92 c'era stata la stretta di Amato, in tutti i sensi. Vabbè, questo è il commento dalla regia. Il commento invece dall'Italia, Marco? No, io credo che semplicemente sia c'è semplicemente stato un aumento dell'utilizzo delle confezioni per attrarre le persone. Sicuramente una parte è dovuta anche al fatto che, per quanto sembri strano, c'è una parte di popolazione che ha un benessere crescente. E credo semplicemente anche che ci sia mancata attenzione, cioè l'idea che il prodotto confezionato sia sempre meglio, questo non è necessariamente vero. Un dato potrebbe essere dato dal fatto che nel 95 probabilmente quando si acquistava del prosciutto cotto o della mortadella lo servivano nella carta rotolata, adesso invece se non la chiedi ti arriva una vaschetta enorme con dentro due fette di prosciutto cotto, questo è notevole. Il problema della produzione comunque rimane un problema di mentalità, perché in realtà molto spesso proprio la vaschetta potrebbe essere riutilizzata, uso l'esempio della vaschetta perché me l'hai fatto adesso, però insomma il problema è comunque culturale e semplicemente culturale, nel senso di dire vabbè utilizzo qualcos'altro, e l'analogia che quello che si può fare con il sacchetto che si utilizza per andare a fare la spesa, può essere utilizzato due o tre volte e non è necessario prendere ogni volta un sacchetto nuovo. Passatemi la banalità dell'esempio, però credo che sia di nuovo una questione culturale. Ma è abbastanza calzante. Io rimango dell'idea che la questione culturale sia importante, tra le altre cose. Riguardo la Campania c'è da dire una cosa, per onor di cronaca e per meriti da riconoscere ad alcune comunità. Non è tutta come Napoli la situazione, ci sono molti comuni anche attorno a Napoli, della provincia di Napoli, che si oppongono a che i rifiuti di Napoli vengano conferiti nelle discariche dei loro territori, perché loro fanno raccolta differenziata. Cioè, c'è un altro problema che noi non abbiamo per motivi di tempo considerato, cioè il fatto che c'è chi rispetta le regole e chi rispetta le regole non è più disposto ad accettare di sopportare il comportamento di chi non le rispetta, e questo secondo me è un aspetto positivo. Noi abbiamo appena fatto una trasmissione sulla gestione dei rifiuti di Napoli e della Campania. Abbiamo parlato di sviluppo sostenibile ed altro. Io dunque vorrei in chiusura ricordare che comunque l'Italia non è solo i rifiuti di Napoli. E dunque, visto che siamo a Bruxelles, vorrei citare una cosa che è avvenuta alla fine di gennaio. A Bruxelles c'è stata la Commissione ha assegnato i premi per la campagna per l'energia sostenibile per l'Europa. C'erano 26 progetti provenienti da tutta Europa che sono stati cosiddetti nominati nella lista per arrivare in finale. Dei 26 progetti ce n'erano ben 6 italiani. E questi progetti ovviamente riguardano lo sviluppo sostenibile, l'energia pulita per il domani, eccetera. Ebbene, dei 5 vincitori, 3 sono progetti italiani. Dunque, non solo rifiuti, ma anche progetti per il domani. Speriamo in bene. Dunque non ci resta che chiudere. Nessuno vuol dire niente. No, con questa notizia ci hai un po'. Volevo fare la positiva alla fine della serata, no, perché non abbiamo fatto altro che criticare, per cui mi sembrava giusto dare comunque anche una notizia positiva. Su 5 premi, 3 sono stati dati all'Italia. Siamo in chiusura, quindi direi un'ultima battuta con Marco in collegamento e con Marco in studio. Beh, Marco in collegamento. Marco in collegamento dice questo. Intanto è un'ottima notizia, e che ci fa ben sperare. È una notizia senz'altro positiva. E io batto ancora su un tasto che la questione dei rifiuti riguarda essenzialmente la tutela della salute delle persone. E questo deve fungere da bussola per noi. Marco? Quello che vorrei dire io è che effettivamente il problema dei rifiuti in Campania è un problema a macchia di leopardo, non tutte le zone ne sono affette, ci sono dei comuni che fanno benissimo nella raccolta differenziata, che fanno benissimo la raccolta dei rifiuti. Grazie. Siamo in chiusura, un ringraziamento ai nostri ospiti, Marco Borracetti in collegamento dall'Italia. Ciao, grazie. E Marco in presente in studio, grazie. Ciao, mille. Grazie a voi. Grazie a Roberto Giava in regia. Grazie a voi. Annalisa, non ci resta che salutare il pubblico, la settimana prossima come sempre su 101.9 Radio Alma. A risentirci la settimana prossima. Buona serata.